tempi cambiano e non si resta legati a un'immagine che non è più mia. Lascerai andare in me con me combattere.